15 gennaio. Stamattina, scendendo a colazione, ho trovato sul tavolo le fatture da pagare per tutte le rose e i bulbi, ovvero i piaceri e orticoli che mi sono concessa l'anno scorso e ho avuto paura. Sono dell'avviso che il giardinaggio sia costoso, soprattutto se lo si deve pagare con l'argent de poche. L'uomo della collera non vuole sentire parlare di rose, cespugli fioriti, alberetti o nuovi vialetti. Perciò, per quale motivo dovrebbe tirar fuori soldi per queste cose? Così non li paga e li devo pagare io, limitando le spese per l'acquisto di vestiti nuovi, il che mi costringe senza dubbio a moderarmi. In ogni caso, se non posso avere entrambi senza sacrifici, preferisco comprare rose piuttosto che vestiti nuovi e prevedo un futuro in cui la mia passione per il giardinaggio avrà un tale ascendente su di me che non soltanto smetterò di comprare vestiti, ma mi toccherà vendere quelli che ho. Il giardino è talmente grande che devo rifornirmi all'ingrosso e temo che presto il giardiniere e il suo aiutante cicogna non saranno più sufficienti. C'è poi la questione dell'acqua. Più piante comportano maggiori annaffiature durante l'inevitabile periodo di siccità e con una sola pompa vicino a casa e un carrettino per trasportare l'acqua ovunque, fino ai luoghi più distanti, la giornata passa in un continuo andirivieni. Coloro che vivono in Inghilterra, dove il clima è temperato e umido, non sanno cosa sia veramente la siccità. Se hanno qualche settimana di cielo sereno, di solito è preceduta e seguita da piogge consistenti. Noi invece abbiamo un'ora di pioggia alla settimana, quando va bene, e poi un mese o 6 settimane in cui è secco. Il terreno è sabbioso e si asciuga così in fretta che persino dopo un temporale intenso posso camminare per i vialetti con le scarpe leggere. Per mantenere un'umidità appena sufficiente, dovrebbe piovere ogni giorno per almeno 3 ore. L'unico modo che ho per avere acqua è attingere alla pompa o dal ruscello che segna il confine del lato est del giardino. Ma anche il ruscello si secca quando non piove e comunque non è agevole raggiungerlo perché ha le sponde ripide coperte di non ti scordar di me. Tuttavia, un piccolo appezzamento di terreno umido e torboso lo possiedo e vorrei piantarci alcune betulle bianche, come nello Hirschwald, tappezzando tutto quanto di azalee sgargianti. Altrove il terreno è sabbioso, adatto a pini e acacie, ma non alle rose. Eppure, guarda un po' cosa riesce a fare l'amore. Nel mio giardino ci sono più rose di qualsiasi altro fiore. La prossima primavera gli spazi vuoti saranno riempiti con gli alberi che ho ordinato. Dietro le delicate acacie ci saranno dei pini, dei sorbi con i loro frutti sorprendenti, querce, faggi rossi, aceri, larici, ginepri. Non era lì che si sedette a riposare sotto un ginepro? Mi sono chiesta spesso come sia riuscito a infilarcisi sotto, poiché è un alberello compatto e fitto che qui da noi non supera mai 2 o 3 metri di altezza. Forse nei luoghi dove viveva il profeta Elia i ginepri erano assai più vigorosi. Tra qualche anno, quando le bambine saranno grandi e antipatiche, il giardino sarà bellissimo, ma forse a loro non piacerà. Se avranno ereditato dall'uomo della collera l'indifferenza per i giardini, lo lasceranno diventare incolto e tornerà allo stato in cui l'ho trovato. Forse i mariti non vorranno abitare stabilmente in un luogo così solitario, o addirittura nemmeno venirci per brevi periodi. In tal caso, il destino del giardino è segnato. La mia unica consolazione è che nel deserto non si incontrano tormi di uomini da sposare. Perciò le 3 signorine dovranno aspettare parecchio prima di sistemarsi. Le altre madri mi dicono che già trovare un solo marito è una fatica improba, figurarsi doverne reperire 3 in una volta. Le bambine sono così vicine d'età che è mancato poco che fossero gemelle, ma io non mi metterò alla ricerca. Non so immaginare nulla di più scomodo in un genero e credo inoltre che un marito non sia una cosa buona per una ragazza. Negli anni che ho davanti farò del mio meglio per instillare in loro l'amore per il giardino e la vita all'aria aperta, persino per l'agricoltura, affinché, se loro ci sarà la minima scintilla di quello che sono io, non chiedano di meglio che vivere qui. Tuttavia le mie speranze di successo sono minime e probabilmente mi aspetta un periodo tremendo in cui mi toccherà andare ai balli ogni giorno, d'inverno, in città lontane. Una povera madre, in là con l'età, infreddolita nell'abito da sera, costretta a partire dopo un pranzo anticipato e a star lontana da casa fino alla colazione del giorno dopo. Ecco, le bambine mi stanno già chiedendo di andare ai parting, come li chiamano loro. E la bambina di aprile ha già annunciato che inizierà ad andare ai balli quando avrà 12 anni. E tu, li hai 12 anni, mamma? Mi ha domandato. Il 1° aprile il giardiniere se ne va e sto già cercando un sostituto. Cambiare così spesso mi dà una grande pena. In 2 anni ne ho visti passare 3 e ogni volta le mie piante e i miei progetti ne risentono. I semi vanno persi, le piantine del semenzaio non vengono messe a dimora per tempo. In un'aiuola già seminata si finisce per piantare un fiore diverso. Regna dappertutto una gran confusione e la disperazione si impossessa del mio cuore. Il giardiniere doveva sposare la cuoca, ma lei se n'è andata all'improvviso a casa dei fantasmi. Lui non vede l'ora di seguirla e intanto si strugge per l'abbandono. La cuoca sostiene di aver visto porte sprangate che si aprivano dalla parte dei cardini con grande strepito, poi un essere invisibile la maledetta. Tali fenomeni adesso vanno sotto il nome di fantasma. Chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni perché prima d'ora non ha mai lavorato in un posto dove ci sono i fantasmi. L'ho consigliata di farci l'abitudine, ma lei ha pensato che sarebbe stata una perdita di tempo. Inoltre avevo un aspetto talmente distrutto che ho dovuto lasciarla andare. Perciò il giardino soffre, io non capisco perché una cuoca dovrebbe vedere cose interessanti che a me non è concesso di vedere. Dopo che se n'è andata, in cucina si sono avvicendate ben due cuoche ed entrambe hanno visto il fantasma. Minora, poi, man mano che si avvicina l'ora di coricarsi, diventa silenziosa e ritrova le buone maniere con i re e con me. Passa tutta la giornata a dimostrare quanto poco ci approvi, ma quando ci portano le candele per la camera da letto non vorrebbe più staccarsi da noi. Un paio di volte ha chiesto ai re se è sicura che non le dispiace dormire da sola. Se si sente nervosa, vengo a farle compagnia, ha detto. Non mi disturberebbe affatto, le assicuro. Ma i re non è tipo da cadere in trabocchetti tanto evidenti e mi ha detto che piuttosto che dormire insieme a Minora preferirebbe la compagnia di 50 fantasmi. Da quando Miss Jones è stata inaspettatamente richiamata al capezzale della madre, ho trascorso molto tempo con le bambine e devo dire che senza l'istitutrice si sta benissimo, tanto che se non fossi perseguibile dalla legge, aspetterei un paio d'anni prima di assumerne un'altra. Tuttavia non posso farlo perché se lo facessi cadrei tra le grinfie della legge, cosa che ogni tedesco passa la vita a cercare di evitare. Tra un mese la bimba d'aprile compirà 6 anni e dopo quella data la visita di un ispettore scolastico è un evento assai probabile. L'ispettore indagherà a fondo sullo stato della sua istruzione e se il suo livello non risulterà adeguato, potrebbero accadere cose spaventose ai genitori colpevoli, cominciando da una multa fino ad arrivare all'incarcerazione in una prigione sotterranea, se con la sospensione delle lezioni tra un'istitutrice e l'altra, dovuta magari alla difficoltà di trovare quella giusta, persistessimo nella nostra condotta criminale. Qui in Germania le carceri incombono già sugli adolescenti come un'ombra e il cittadino teutone ne è circondato per tutta la vita, tanto che è costretto a muoversi con estrema cautela se vuole limitarsi a pagare per il loro mantenimento e non finirci dentro. Le persone istruite di norma non trascurano l'istruzione delle prole e insegnano loro a leggere, scrivere e a recitare le preghiere. Per questo si offendono se un ispettore si intrufola nella loro casa. Ma in fondo questo non è importante, anzi direi che ci fa bene essere preoccupati. Conosco un filosofo il quale sostiene che se le persone non sono perennemente e adeguatamente preoccupate, non fanno mai nulla di valido nella loro vita. Davanti alla legge siamo tutti criminali e chiunque è considerato colpevole finché non prova la sua innocenza. Minora è stata così tanto insieme alle bambine che dopo qualche giorno di tentativi infruttuosi di tenersene alla larga, ha pensato che fosse meglio rassegnarsi e sfruttare la situazione considerandole immateriali per un capitolo del suo libro. Perciò si è messa a seguirle ovunque, da risveglio al momento di coricarsi e le ha coinvolte in conversazioni intelligenti, o almeno ci ha provato. È uscita in giardino con loro per studiare il modo in cui andavano in slitta, trainate da un grosso cane, e gli ha complicato la vita in ogni modo possibile e immaginabile. È andata avanti così per 3 giorni, poi si è seduta davanti alla macchina da scrivere che appartiene all'uomo della collera per copiare gli appunti. Fa così, chiede in prestito alla macchina da scrivere ogni volta che gli appunti sono maturi per ricevere una forma e batte tutto a macchina, anche la corrispondenza personale. Non dimentichi di menzionare le ginocchia materne, ha detto i re. Se mancano le ginocchia, non si può dire che sia scritto qualcosa di valido sull'infanzia. Oh, certamente, non le tralascerò. Parli anche delle dita dei piedini, dica che sono rose, ho aggiunto. L'ho già scritto, credo, ha detto Minora, cercando tra gli appunti. Però i bambini non sono una peculiarità tedesca e non capisco perché debba menzionarli in un libro di viaggio in Germania. Le bambine di Elizabeth possiedono tutte lo stesso numero di braccia e gambe dei bambini inglesi, ha puntualizzato il re. Tuttavia, non possono essere proprio identici, sa, ha replicato Minora con espressione preoccupata. Vivere qui e mangiare cibi così strani, non disporre di un dottore, non ammalarsi mai, deve pur produrre qualcosa di diverso. I bambini che non si ammalano mai di morbillo e simili devono per forza essere differenti dagli altri. Si tratta di qualcosa che fa parte del loro organismo in modo ineliminabile. Un bambino nutrito a pollo e budino di riso non ha nulla in comune con un bambino che riceve quotidianamente spigganse e salsicce di fegato. Sono creature diverse. Non so dire di preciso in che modo, ma lo sono certamente e credo che se continuerò a descrivere i loro comportamenti, come ho fatto in questi giorni, accumulando materiale, forse riuscirò a cogliere le differenze. Perché curarsi delle differenze? Ha chiesto i re. Fosse per me, scriverei un pensierino e ci metterei i soliti dettagli, ginocchi e piedini, per esempio, conferendo al tutto un tono delicatamente commovente. Ma per me non è affatto facile. Ho pochissima esperienza di bambini, ha protestato Minora in tono mesto. E allora perché mai scrivere di bambini? Se non si ha l'esperienza? Ha domandato Elizabeth, famosa per il suo buon senso. Anch'io ho pochissima esperienza di bambini, perché non sono madre, ha detto il re. Ma se non cerca l'originalità a tutti i costi, non c'è nulla di più facile che buttare giù qualche paragrafo. Io riuscirei a sfornarne una dozzina allora. Si è seduta alla scrivania, ha preso una vecchia lettera e ci ha scribacchiato sopra per 5 minuti. Ecco qua, è suo, ci ho messo ginocchi e piedini rosei. Le ha teso il foglio. Minora ha inforcato gli occhiali e ha detto ad alta voce. La sera, quando la mia bimba chiude gli occhi e canta gli inni prima di dormire, la mia anima spenta e spossata si riempie di timore reverenziale. Vaghi ricordi si affollano nella mia mente, ricordi di me e mia madre, tanti, tanti anni fa. Rammento come mi sentivo dolcemente passiva fra le sue braccia che mi raccoglievano semi addormentata. Poi mi svestiva e mi metteva nella culla senza svegliarmi. Credevo agli angeli e ai bambini che vengono dal cielo e che se si comportano bene sono protetti da grandi ali bianche. Tutte le tenere e poetiche frottole che i bambini imparano sulle ginocchia della loro mamma, proprio come faccio io con la mia figlioletta. Lei non capisce la bellezza delle cose incantevoli che le racconto. Mi guarda con i suoi occhioni paradisiaci mentre le parlo proprio del paradiso da cui è scesa da poco tempo. Quando il racconto si interrompe perché è il momento della pappa, del pane e del latte, lei è sollevata e confortata. A 2 anni non capisce gli angeli, ma conosce bene il pane e il latte. A 5 comincia ad averne una vaga nozione, ma preferisce comunque pane e latte. A 10 il pane e il latte sono ormai relegati alla nursery insieme agli angeli e lei ha già scoperto che sono lussi inessenziali alla vita quotidiana. Negli anni successivi sarà restia ad accettare le verità preconfezionate e insisterà a pensare con la sua testa, impegnandosi a liberarsi delle tradizioni ormai screditate. Si sforzerà instancabilmente di vivere secondo alti principi morali, cercando di essere forte, pura e buona. Come il tè, ha puntualizzato il re. Tuttavia, pur possedendo mille virtù, le mancherà il fascino che emanava, quando a occhi chiusi cantava i suoi primi inni inginocchiata in grembo alla mamma. Mi piace tanto al tramonto sedermi nel vano della finestra della sua cameretta per contemplare il momento misterioso in cui si corica. Il bagno glielo fa sua madre, perché la piscina è troppo preziosa per essere toccata dalla bambinaia. Poi avvolta in un grande asciugamano da cui spuntano soltanto i suoi piedini rosa. Viene cosparsa di borotalco, viene pettinata e infine indossa la camicia da notte. Così, con i boccoli pettinati e le orecchie splendenti di pulizia, è posta sulle ginocchia dalla mamma, fagottino di cicetta profumata, e sul suo visetto si riflette la tranquillità del viso della mamma, mentre recita la preghiera della sera per la pietà e la pace nel mondo. Ma che strano, ha commentato Minora alla fine della lettura. Stavo per scrivere la stessa cosa. Vabbè, allora le ho risparmiato la fatica di esprimerlo. Può copiarlo se vuole. Ma lei ritiene di avere un'anima spenta, Miss Minora? Ho domandato. Beh, secondo me è un aggettivo ben scelto. I lettori crederanno che l'autore sia un uomo. Sapete, intendo scrivere sotto pseudonimo maschile. Proprio come pensavo, ha commentato il re. Sceglierà uno pseudonimo come John Jones o George Potts, un nome assolutamente banale per sottolineare il suo atteggiamento intransigente nei confronti delle debolezze femminili, e nessuno rimarrà ingannato. Credo davvero, Elizabeth, ha detto il re poco dopo, dalla stanza accanto si udiva il ticchettio esitante della macchina da scrivere, che il libro glielo stiamo scrivendo noi. Prenda nota di ogni parola che diciamo. Perché sta ricopiando le cose che ho scritto sulla bimba? Perché Perché le ginocchia di una madre sono considerate commoventi? Io sulle ginocchia di mia madre non ho mai imparato nulla, e tu? Nel mio caso si tratta di matrigne, di loro mai nessuno tesse le lodi. Mia madre era sempre ai ricevimenti e la bambinaia mi faceva recitare le preghiere in francese. Quanto al bagnetto e al borotalco, quando ero piccola non si usavano. Non c'erano né stanze da bagno né vasche, ci lavavamo la faccia e le mani e in camera c'era una bacinella per lavarsi i piedi. D'estate ci facevano il bagno completo e subito ci mettevano a letto per non farci prendere freddo. La mia matrigna non si preoccupava più di tanto, indossava sempre vestiti di trina rosa e più invecchiava, più i vestiti erano tutti un frufru. Quando se ne va? Chi? Minora? Non gliel'ho chiesto. Allora glielo chiedo io. Non può trascurare così lo studio dell'arte ed è qui da un'eternità, saranno quasi 3 settimane. Sì, è arrivata lo stesso giorno in cui sei arrivata tu, ho detto affabile. Ire è rimasta in silenzio. Spero abbia riflettuto sul fatto che trascurare l'arte non è molto diverso dal trascurare il proprio marito, il quale se ne starà a letto agonizzante mentre lei trascorre giornate liete insieme a me. Ire è molto brava a dimenticarsi di avere una casa e una vita, oltre alle nostre chiacchiere, i libri, il canto e le risate alle spalle delle persone, le bambine da baciare e i tornei di dialettica con l'uomo della collera. Naturalmente le voglio molto bene, è così carina che chiunque abbia occhi per vedere non può non volerle bene. Ma c'è un limite a tutto. Tra un mese, per esempio, dovremo imbiancare i corridoi e le stanze di servizio e chiunque abbia mai fatto imbiancare la casa sa bene quanto sia gradevole viverci mentre gli banchini sono al lavoro. Inoltre non sarà possibile servirle la cena, niente succulente insalate condite con l'abbondante manciata di cumino che lei ama tanto. Comincerò a chiedergli ogni giorno come sta suo marito, in modo da dirigere dolcemente i suoi pensieri verso i doveri di una moglie. Non si può dire che straveda per il marito, visto che lui non corre ad aprirle la porta ogni volta che lei si alza per uscire dalla stanza, nonostante gliel'abbia chiesto e gli abbia ripetuto quanto ci tiene. Niente da fare, lui non vuole. Una volta è stata ospite in una casa dove ha incontrato un signore inglese, la cui sveltezza quanto a porte e sedie l'ha impressionata a tal punto che da quel momento il marito non ha più avuto pace. Adesso, ogni volta che devo uscire da una stanza, le torna in mente che lui non rispetta i suoi desideri, tanto che una porta chiusa rappresenta il fallimento del loro matrimonio. Appena vedo una porta chiusa, le viene da chiedersi perché sia nata, così mi ha detto una volta che era in vena di confidenze. Il marito è un ometto simpatico, tranquillo, gradevole conversatore, ha un buon carattere e ama divertirsi. Tuttavia crede di essere troppo vecchio per imparare usanze nuove e scomode e, come molti uomini retti, teme più di ogni altra cosa che la moglie tenti di migliorarlo. Timore condiviso dall'uomo della collera, il quale, a scuola, si intestardisce a tenere il bicchiere con la mano sinistra, perché se non lo facesse probabilmente i parenti direbbero che il matrimonio l'ha migliorato. E ciò lo ferirebbe a morte. Tale abitudine, tra l'altro credo che tenere il bicchiere con la sinistra non gli piaccia neanche, è occasione di discussioni quasi quotidiane tra me e le bambine. April, tieni il bicchiere con la destra, ma papà lo tiene con la sinistra. Quando sarai grande come lui, farai come ti pare. E ieri Minora ha dato il suo grazioso contributo alla discussione. Pensa come sembrerebbe strano se tutti tenessero il bicchiere così. April è rimasta folgorata dalla forza di questa affermazione. 28 gennaio. Fa molto freddo, siamo scesi a meno 19, ma si sta benissimo, non c'è vento, splende il sole e ci si sente allegri, pieni di energia e ben disposti verso tutti. Le mie giovani ospiti sono ancora qui, ma l'aria è così leggera e briosa che neppure loro mi pesano più di tanto. Tra l'altro mi hanno detto che presto partiranno entrambe, per cui l'imbiancatura si farà senza intralci e la casa potrà accogliere la primavera tutta vestita a nuovo. Minora ha dipinto il mio ritratto e ha intenzione di regalarlo all'uomo della collera come dono da Dio. Il fatto che lei abbia permesso di ritrarmi e sia stata docilmente in posa per un'infinità di volte costituisce la prova definitiva della mia totale assenza di vanità. Irè, quando l'ha visto, ha riso fino alle lacrime e le ha subito commissionato anche lei il proprio ritratto per portarlo al marito come regalo di compleanno i primi di febbraio. Non fosse per il compleanno, non sarebbe neppure tornata a casa. Da noi, però, i compleanni sono ricorrenze importanti e solenni che non possono passare inosservate, anzi, devono essere festeggiate in presenza di una folla di parenti solidali. vicini e lontani, riuniti per l'occasione a proclamare come porti bene gli anni. Chi l'avrebbe mai detto? È tutto fantastico. Tutti intorno alle candeline rosa e bianche. Gli anni della tua vita, piantati in un'enorme crostata traboccante di marmellata. Ed è proprio la torta con le candeline la vera protagonista, circondata dai regali che ciascun invitato è più o meno tenuto a offrire. Siccome il mio compleanno cade d'inverno, ricevo sempre mezzi guanti, blocchi di carta assorbente e cornici per le fotografie. Se fosse d'estate riceverei invece cornici per fotografie, carta assorbente e nessun mezzo guanto. Quale che sia il regalo, e da chiunque provenga, devo riceverlo con vivace gratitudine e grandi esclamazioni di gioia, con parole come incantevole, grazioso, splendido, meraviglioso e dolce. Ripetute un milione di volte, finché la sventurata festeggiata non senta addosso tutto il peso di un altro anno che è passato e l'ha lasciata più vecchia e saggia, eppure stanca delle scemenze e delle ripetizioni inutili. Viene issata una bandiera e si celebrano riti per tutta la mattina. Si mangia la torta, si brinda la salute, si fanno discorsi solenni e si ricevono strette di mano tanto forti che quasi te la staccano dal braccio. Arrivano i parroci e quando nessuno vede le loro mogli contano le candeline sulla torta. L'occupatissima signora del castello, vicino, trova il tempo per mandare un vaso di fiori e cercare la mia età nell'almanacco di Gotha. Dalle fattorie giunge una delegazione condotta dall'ispettore capo in guanti bianchi di capretto, il quale invoca le benedizioni del cielo sulla graziosa padrona. Le bambine sono incantate e se ne stanno in un angolo a provare i mezzi guanti. La sera si organizza una cena per i parenti e le principali autorità locali, con ulteriori brindisi e discorsi. La mattina dopo, quando scendo a colazione, ringraziando il cielo che la bufera sia passata, vedo che l'altare della celebrazione è ancora lì, cosparso di briciole di torta, colature di candele e quant'altro, poiché sgomberare prontamente denoterebbe una deprecabile mancanza di sensibilità, scandalosa in chiunque, ma soprattutto in una tenera creatura di sesso femminile. Dalle nostre parti non c'è compleanno che non sia festeggiato così. Perciò le persone più lungimiranti in genere partono per un viaggio proprio in quel periodo critico. E credo che l'anno prossimo farò come loro. Peccato che a dicembre le gite in campagna o al mare non siano gradevoli. E andare in città significa incontrare parenti che magicamente faranno spuntare una torta dal fertile terriccio del loro affetto, come un fungo. Spero che da queste pagine emerga l'assoluta superiorità mia e direi rispetto alle ordinanze e debolezze umane, e se ci fosse bisogno di prove ulteriori, basti dire che entrambe, sfidando la tradizione, disprezziamo qualsiasi rituale associato al genetliaco. Molti anni fa, agli albori della nostra amicizia, quando non eravamo ancora sposate, per il suo compleanno le spedì un piccolo candelabro di ottone. Qualche mese dopo, al momento del mio compleanno, le contraccambiò con un taccuino. L'anno successivo, non avendolo mai usato, glielo regalai. Lei mi ringraziò profusamente come a usanza e quando fu il mio turno vidi ricomparire il candelabro d'ottone. Da allora ci alterniamo nel possedere questi due articoli e abbiamo risolto il problema dei regali una volta per tutte con poca spesa e tanta resa. Non menzioniamo mai il nostro tacito accordo se non al momento di scrivere un biglietto di calorosi ringraziamenti. Questo tempo radioso che infonde gioia per il semplice fatto di vivere e rende impossibile starsene seduti accanto al fuoco, va avanti da più di una settimana. Le nostre attività principali sono state andare in slitta e soprattutto pattinare. Andare sui pattini dalle nostre parti è più piacevole che altrove, poiché la zona è solcata da una fitta rete di piccoli canali comunicanti con un lago e il suo affluente e con il ghiaccio spesso duro come il granito. Si possono percorrere miglia e miglia senza dover tornare indietro per la strada da cui si è venuti, cosa questa indubbiosamente fastidiosa e persino mortificante. I re pattina meravigliosamente, potrei dire lo stesso di me, non fosse per la modestia che mi trattiene. Del resto tutti i tedeschi pattinano bene per il semplice motivo che per almeno 3 o 4 mesi l'anno possono cavarsene la voglia. Minora, con suo grande stupore e sconcerto, resta sempre indietro e arriva nel luogo dove ci attendono tè e pasticcini mezz'ora dopo che abbiamo finito di rifocillarci. Per alcuni tratti le sponde dei canali sono talmente alte che quando pattiniamo sono visibili soltanto le nostre teste sopra il bordo. Lo spettacolo bizzarro di 3 teste femminili, che come ha notato Minora nel suo taccuino, scivolano veloci con l'aria di divertirsi un mondo. Quando invece le sponde sono basse, sembra che sfrecciamo leggere sulle zolle dei campi arati, sia che si vedano le gambe o no a seconda della profondità degli argini. Prima della partenza stabilisco il punto dove ci aspetterà la slitta e ci verrà servito il tè, perché pattinare contro vento è tanto detestabile quanto è delizioso avere il vento a favore, e la natura dispettosa fa soffiare il vento senza curarsi minimamente delle nostre esigenze. Ieri, per fare qualcosa di diverso, abbiamo organizzato un picnic sulle rive del Baltico, che in questa stagione è stretto nella morsa del ghiaccio e nel tratto più vicino a noi offre un panorama alquanto desolato. Ho un debole per i picnic invernali, quando non ci sono le zanzare a infastidirci, i formicai sono in letargo, e tra i posti da picnic che preferisco, questo sul Baltico è di gran lunga il migliore. Ogni qualvolta si presentano le condizioni meteorologiche che preludono a una di queste gite, e considerato che il viaggio dura 3 ore, l'uomo della collera, forte della sua esperienza, comincia a lamentarsi e protestare. Di regola deve esserci la neve alta e un freddo pungente, niente vento e cielo terso. Se quando mi alzo la mattina trovo che tutte queste condizioni sono rispettate, allora niente, se non cause di forza maggiore, può impedirmi di far preparare la slitta e partire. Per i cavalli, lo ammetto, è una faticaccia. Tuttavia, a che serve possedere dei cavalli se non li usi per andare dove ti pare quando ne hai voglia? E poi tutti abbiamo giornate faticose, perché non dovrebbero averle anche i cavalli? L'uomo della collera detesta i picnic che non gli interessano né la natura né il mare ghiacciato, figurarsi la noia che prova ad attraversare una foresta che non sia di sua proprietà. Una singola rapa che cresce nei suoi possedimenti lo affascina assai più del pino più dritto e alto che abbia mai elevato la chioma coronata di neve alla luce del tramonto. Considerate ora la superiorità della donna, la quale coglie la bellezza di entrambi e dopo aver ammirato il pino ed essersi beata della sua bellezza, torna a casa e si mangia placidamente la sua rapa. In questo tratto di costa ci ha messo piede una volta sola e in quell'occasione ci ha mortificato così tanto con il suo atteggiamento blasé che ho smesso di invitarlo. Il luogo è bello, una foresta che si estende lungo la riva a perdita d'occhio e dopo miglia e miglia di strada attraverso gli alberi, in fondo a una galleria verde ci si trova improvvisamente davanti alla distesa liscia e scintillante del mare, con le vele arancioni dei pescherecci che luccicano l'orizzonte. Ogni volta che ci sono andata non ho mai trovato vento e il silenzio era talmente profondo che riuscivo a sentire il battito del mio cuore.